Buonasera a tutti, regà. Primo giorno di dicembre. E tra qualche giorno arriva Natale. Io ho un'idea fenomenale. Lo faccio io un bel regalino, regà. Inizia il cammino de Gigi D'Agostino. Cesa. Dai, com'è che dici G? Non giochiamo. Anelo all'eternità, all'eternità, perché lì troverò i miei quadri non dipinti e le mie poesie non scritte. Kelly Gibran. Di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. È il cammino di Gigi D'Agostino. Dai e poco sta cassa. Che melodia, Gigi D'Agostino questo sabato suona a Lombardia, a Capriolo, vicino Brescia, discoteca, la fattoria, dalle ore 22, lascia che sia. Musical, mental. Gigi D'Agostino. Musical, mental. Gigi D'Agostino. Tino, Tino, Tino, Tino. Tino, Tino, musical, mental, Tino, Tino, Tino, mental, un DJ con le palle. Dai una mezzata, vai G. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Ritengono perfetti unicamente perché sono meno esigenti nei propri confronti. Hermann Hesse. Gigi D'Agostino, tamarro bizzarro. Sei pronto, G? Roba da scratch, roba dei DMC. Mano che sta suonando Gigi D'Agostino. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Il primo dicembre del 1941 nasce Anna Mazzamauro, attrice italiana. Ammazza, oh. Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Dai, ammazza le screcce, io. Il cammino di Gigi D'Agostino. E le son trescia di lotto. La fa chi balla, chi non si muove è una palla. M2O, musica allo stato puro. Venir fuori dall'artista che non sia nell'uomo. Henry Louis Mencken. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica vendetta. Se l'invidia potesse guardare fissamente il sole, non ne vedrebbe che le macchie. Conte di Belvezzè. We'll be right back. sei uno che si abitua molto facilmente alle cose. E poi dopo ne sei schiavo. Ne sei schiavo. Ne sei schiavo. Ne sei schiavo. Disposizione stabile della mente. Stai ascoltando la frequenza sbagliata. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Un altro modo di fare musica. Terapia comportamentale del suono. Mi sembra buono. Un attimo di attenzione. Dobbiamo cambiare canzone. A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialza e continua per la sua strada. Churchill. Di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. L'estetica della gente che non pensa crede che la natura abbellisca la bellezza, oppure che la semplicità abbellisca la bellezza. Abbellisca la bellezza. Tutto ciò che è bello e nobile è sempre il risultato della ragione e della creatività umana. Che la volgarità sia naturale, mentre la virtù sia artificiale. Virtù, virtù, soprannaturale. Il male si fa senza sforzo, naturalmente. Il bene è sempre il prodotto di un'arte. Tratto dal saggio di Baudelaire, il pittore della vita moderna. radio a colori. Parla Gigi D'Agostino. Questi pazzi del destino sono più di un cammino. Questi pazzi del cammino. Tu sei Gigi. Questi pazzi del cammino sono più Gigi D'Agostino. Ascoltando del cammino parla Gigi D'Agostino. Questi passi D'Agostino sono Gigi del cammino. Passi, passi del cammino. Tu sei Gigi, tu cammino. Questi passi del cammino sono Gigi D'Agostino. Giovedì 7 dicembre Gigi D'Agostino suona a Pavia, discoteca Metropolitan. Discoteca Metropolitan a Casteggio, in Lombardia. Dalle ore 22, lascia che sia. Ascoltando del cammino parla Gigi D'Agostino. Questi passi D'Agostino sono Gigi del cammino. Ascoltando del cammino parla Gigi D'Agostino. Passi, passi del cammino. Questi passi del cammino sotto Gigi D'Agostino. Ascoltando del cammino parla Gigi D'Agostino. Questi passi D'Agostino sono Gigi del cammino. Passi, passi del cammino. Tu sei Gigi, tu pulmino. Questi passi del cammino sono Gigi D'Agostino. Ho un po' di perplessità. Mando la pubblicità. La vita è più bella quando suona la campanella. Usato da un uovo per fare un altro uovo. Summer Butler. D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Domani sera, sabato 2 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona in Lombardia, a Capriolo, in provincia di Brescia, discoteca La Fattoria. Dalle ore 22 entri in pista e non vai più via. Il primo dicembre del 1835, Hans Christian Andersen pubblica il suo primo libro di fiabe. Ricchi per quello che si guadagna, ma per quello a cui si rinuncia, a cui si rinuncia. Henry Ward Beecher. Este programa musical mental, ole, me gusta mucho macho, macho, macho, macho, macho, macho. Dicembre del 1935 nasce Woody Allen, regista, scrittore ed attore americano. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino, mica non sciolente. Ora vado a pinciare un brano muy incassato che te scassa la casa, che se, con la casa che, con la casa che te scassa, con la casa che te scassa. Oh, la porta non riusciva a spiegarmi. Compiacersi del semplice, ci vuole un'anima grande. Arturo Graff. Cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare a come si è vissuto. Sì. Paul Borger. È come se tutto fosse strano, aria. Non è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. Il cammino di Gigi D'Agostino è una grande famiglia. Che meraviglia. È come se tutto fosse strano, aria, sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, sì. Aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, D'Agostino. Aria per Gigi D'Agostino, sulle mani. Aria per Gigi D'Agostino. Fermamosi un momento. Parte lento violento. E vi. Il mio lento violento è uno stile di vita, una corrente di pensiero, una filosofia. Fermamosi un momento. Maestro, corteadro, erburattino, Gigi D'Agostino. Dai un po'. Colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. musica che unisce. Todos, cada hombre y todos los hombres. Todo y todos, todos los hombres y cada hombre. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Che sono io. Ma il cammino è nostro. E mio e vostro. E mio e vostro. Giovedì 7 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona Pavia, discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia, dalle ore 22, lascia che musica sia.

Sabato 2 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona in Lombardia. A Capriolo, vicino a Brescia, discoteca La Fattoria. Dalle ore 22, lascia che sia. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Solo dentro me, una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto sempre con te. Credo in quel che ho provato ed è quello che vedo solo in te. Ridotti alla disperazione o per toccare il cielo con un dito. Giacomo Casanova. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una

Ci sentiamo domani, grazie a tutti.